soft peanuts. Soft peanuts, soft peanuts. Soft peanuts, soft peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni del Salt Peanuts. Oggi un'occhiata all'Europa, quanto accade in Europa, e da parte di due protagonisti, due ormai cinquantenni, attempati forse anche verso i 60, più o meno della stessa generazione. E si tratta di Luis Clavis e di Matt Gustafsson. E quindi Francia e Svezia. Clavis ha pubblicato recentemente per le etichette ECM un altro lavoro, un altro progetto affidato sempre allo stesso gruppo, direi che si sta consolidando con la stessa formazione che ha dato già prova un paio d'anni fa, prova maiuscola peraltro. Era un trio in quel momento, infatti Clavis era accompagnato da Gil Coronado alla chitarra e Benjamin Mousset al pianoforte, alle tastiere. Tra l'altro anche si è ascoltato questo gruppo in Italia, in Emilia, Reggio Emilia, dando prova di qualità straordinarie, anche come musica, come costruzioni. In quest'ultimo lavoro si aggiunge la percussione, le percussioni di Keivan Cemirani, che è un percussionista di formazione classica iraniana, quindi proviene da una formazione tradizionale della musica classica persiana. Il risultato è apprezzabile, direi, decisamente. Ancora Clavis riesce a dimostrare le sue qualità di creatività, le sue grandi capacità creative. E questo si può dire che per quanto riguarda le pubblicazioni delle CM risulta essere una delle migliori degli ultimi tempi. Probabilmente anzi la migliore di quest'anno. Ascoltiamo adesso un paio delle composizioni firmate naturalmente tutte da Luis Clavis. Thank you. Thank you. Thank you. quartetto di Luis Clavis, che dà prova ancora una volta di una capacità creativa notevolissima, è anche un insieme molto calibrato, molto interessante, appunto senza la presenza del contrabbasso, ma con la chitarra e soprattutto il pianoforte, bravissimo Benjamin Mousset, che svolge spesso anche la funzione di sostegno del basso. È una questa è una normale evoluzione. Clavis continua quel viaggio che ha iniziato ormai 25 anni fa più o meno e che gli ha dato la possibilità di creare uno stile e di continuare su questo percorso, quindi dando prova anche che non era una creazione occasionale, ma era proprio una visione musicale profonda che ha sviluppato in tutti questi anni. Altro discorso che si può fare, analogo perlomeno, però di natura completamente diversa e anche di una terra completamente diversa. Si tratta di Gustafsson, Mats Gustafsson, musicista che anche lui nasce forse anche prima da un punto di vista discografico, infatti siamo alla fine degli anni 70, uno delle voci più interessanti della Svezia, del territorio svedese, che negli anni ha dato prova di una versatilità notevole. Negli ultimi tempi ha un progetto di base che è un trio, una formazione di trio, oltre lui, oltre che il suo sax e varie elaborazioni del suo sax o dei suoi sax, la batteria di Andreas Warlin e il contrabbasso di John Bertling. Questa formazione di trio è chiamata Fire e ha dato molti concerti e ha fatto diverse prove discografiche e negli ultimi 3 anni più o meno ha costituito un'orchestra, una formazione orchestrale che è già alla terza prova, in questo caso quello è il disco che ascolteremo oggi. Una prova maiuscola, una sorta di progetto che vede in 3 parti, o meglio in 2 parti, però inframmezzata da una performance, da una registrazione dal vivo che poi ripercorre gli stessi temi. Però questa è una seconda parte, il primo progetto si intitolava Exit e in questo caso si chiama Enter il disco. Il trio è accompagnato da una formazione molto allargata, sono 30 elementi, di questa formazione fanno parte anche vecchie conoscenze, penso per esempio a Martin Kukken che è il leader degli Angles, altro straordinario musicista che appunto ha dato vita a un'altra formazione orchestrale che può essere apparentata ma è comunque con un'intenzione diversa, una idea diversa. Poi al baritono, sax baritono e al clarinetto si incontra ancora una volta, come in molte formazioni svedesi, Fredrik Ljungsvik, oppure al sax baritono, al sax basso poi in questo caso, Jonas Kullamar, che anche lui è un solista apprezzato, leader di varie formazioni autonome, insomma. E poi alla tromba non può mancare Magnus Bro, oltre ad altri trombettisti. Poi, la parte importante in questo caso è proprio il dialogo e il sostegno che l'orchestra, questa interplay dell'orchestra con la voce, sono 3 cantanti, sono Mariam Valentin, Simon Olson e Sofia Jemberg. Si alternano queste voci e danno vita a una performance di una potenza espressiva straordinaria. Il linguaggio è molto, risente molto di questa cultura scanzonata nordica che utilizza un po' tutte i linguaggi orchestrali già formulati finora. Sicuramente diventa una sintesi, la si può avvertire, una sorta di sintesi con la Liberation Music Orchestra, ma anche con altre formazioni, penso per esempio alla Globe Unity tedesca, oppure anche ad altre formazioni che si sono, penso all'Ottetto di Brothman per esempio, ma tutte formazioni che hanno teso verso una sorta di forma nuova, di ricerca nuova, dove per esempio il linguaggio del rock diventa una parte forse dominante, ma la declinazione che ne viene data è una declinazione decisamente jazzistica e con risultati a mio avviso veramente straordinari. Direi che questo disco, quest'ultimo lavoro, si può scrivere come una delle cose migliori degli ultimi anni. Ascoltiamo, questo è stato registrato nel gennaio di quest'anno a Göteborg, e ascoltiamo il primo brano, poi ne parleremo un attimo. Thank you. winter, blue stiff, dead cold, from being young to getting old. There's nothing that we can hold, nothing we can control. Still want to keep it a private secret, to whisper only into the branches of old oaks, into the mouth of frogs, into the sullen ground. Oh, into the mist that flows around, straight into all black holes that was ever made, and make the black turn green, and the green turn brown, and then the brown slowly fades into black again. Na na na, so that the whisper, so that the whisper goes silent and everything stops. Oh, Ecco, questa è una delle qualità straordinarie anche dell'orchestra e quindi soprattutto della guida di Matt Gustafson, è il crescendo, questa tensione che viene costruita anche con la struttura orchestrale che fa da base su un dialogo allucinato tra la voce di Miriam Valentin e il sax, appunto il sax di baritono, di sax tenore di Gustafson. Quindi una tensione molto forte che riesce appunto ad essere dipanata in una durata piuttosto lunga. Il disco, il lavoro, appunto intitolato, lo ricordo, Enter, è composto di 4 movimenti, è una sorta di suite, una situazione di insieme dove va a toccare poi varie aree della sensibilità anche vicina al rock, ma sempre con uno sguardo legato alla storia dell'orchestra. Oltretutto la Vienna Art Orchestra non è passata in vano, come Mike Westbrook nelle sue esperienze dagli anni 70 in poi. Quindi una capacità di sintesi, di continuazione, di approfondimento, quindi passi avanti che vengono fatti poi nella stessa linea della tradizione orchestrale europea, soprattutto europea. E ascoltiamo un altro brano, un'altra situazione che risente in modo, come nel primo brano che abbiamo ascoltato era più evidente magari un legame con il blues e con quello che è stata anche l'evoluzione nel rock, però che prende dalle atmosfere e dalle situazioni del blues, adesso si sposta più direttamente nell'area del rock, ma mantenendo comunque lo stesso tipo di costruzione. Ascoltiamo. Watch Questa era la Fire Orchestra nel nuovo progetto, il secondo capitolo intitolato Enter, guidato l'orchestra guidata da Matt Gustafson, con una formazione di 30 elementi che raccolgono un po' tutte le i migliori talenti svedesi. Disco uscito recentemente, naturalmente anche questo, come gli altri lavori di Gustafsson, per la Rune Gramofon, un'etichetta che dà una bella testimonianza delle voci che giungono dalla Scandinavia. Era anche l'ultimo ascolto per oggi, quindi vi ricordo che tutta la trasmissione potete riascoltarla o trovarne anche le informazioni discografiche sul nostro sito radiocittafugico.it, nella sezione playlist. Era l'ultimo ascolto, quindi possiamo salutarci, alla prossima.